tu per caso sparissi e io non sapessi più con chi parlare. Dopo tre gin cosa dovrei fare? Non mi va di ricominciare, non mi va di sentirmi male. Hai capito chi sei? Sei convinto il mondiale da quando ci sei. Sei la nazionale del 2006, ma dentro casa col vestito da sposa. Sei il finale migliore di tutti i film che possiamo guardare prima di andare a dormire. E chiudendo gli occhi immagino, immagino Fiumicino. Tu che parti per un viaggio, io che annaffio le piante aspettando il tuo ritorno. Con lo sguardo perso tra le nuvole di te. Mi dovessi svegliare colpito da un proiettile al cuore, inseguito da strane cose. Mi basterebbe abbracciarti sotto le coperte o sul divano, toccarti la mano e sentirti il respiro per ristare bene, tornare a dormire, ritornare a sognare. E chiudendo gli occhi immagino, immagino Fiumicino. Tu che parti per un viaggio, io che...